Piazza 24, i gialli della storia. Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò e barba l'alieno. Era Oriana Fallaci che combatteva contro il suo tumore e contro l'Islam. Dopo i terribili attentati dell'ISIS compiuti in nome di Allah, sono attualissimi gli scritti di Oriana sulle radici del terrorismo islamico. Il suo libro La rabbia e l'orgoglio, scritto subito dopo l'11 settembre, ha creato in Occidente e in Oriente un acceso dibattito, dando vita a due visioni del mondo islamico contrapposte. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua vita di giornalista e scrittrice che ha analizzato come nessuno le origini del terrorismo islamico. Un'analisi che ha fatto rumore e ha diviso. Nel 2011 Oriana Fallaci ha già quasi pronte le bozze per un suo libro di memorie, ma l'attacco dell'11 settembre modifica i suoi piani e decide di rilasciare un'intervista da New York. Intervista che Ferruccio De Bortoli, allora direttore del Corriere della Sera, ricorda così. Il giorno successivo arrivò una telefonata di Oriana Fallaci. Oriana non si chiamava, Oriana chiamava. E a un certo momento, naturalmente, io le chiesi di intervenire, poi lei stava a New York, a pochi chilometri da Ground Zero, e a un certo momento ci si mise d'accordo su una intervista che avrei dovuto farle io. Quando arrivai nella casa di Oriana l'intervista l'aveva già scritta, nel senso che si era fatta delle domande e si era data delle straordinarie risposte, e certamente era una bella intervista. Allora, insomma, è un'intervista nella quale non c'era soluzione di continuità tra le domande e le risposte. E allora io le proposi di pubblicare un articolo. Poi ci fu una lunghissima, estenuante discussione sul titolo. Allora, la mia prima proposta era Il massacro e l'orgoglio. Lei ci pensò a lungo, poi decise La rabbia e l'orgoglio, e naturalmente il titolo, che poi è diventato famoso, era certamente migliore della prima modesta proposta. E poi l'articolo uscì in un sabato, nel quale ci accorgemmo subito che era successo qualcosa, perché fu un profluvio di telefonate, le copie andarono esaurite subito e ci fu una reazione estremamente forte, viscerale, partecipata, passionale, anche di coloro che non erano assolutamente d'accordo. L'articolo suscita molte polemiche, il mondo intero reagisce. Tra le prime, l'amica rivale Christiana Manpour, giornalista famosissima della CNN. Io penso che abbia preso una posizione chiara, come ha sempre fatto. Mi chiedete se ha ecceduto? Probabilmente in qualche cosa. Ha diffamato qualcuno? No, non direi. Ha rappresentato un estremo delle possibili, delle tante possibili reazioni dopo l'11 settembre? Credo di sì. Ha scritto quello che molta gente pensava. Io avrei fatto lo stesso? Forse no, perché il mio stile è diverso, particolarmente in questo periodo delicatissimo per le relazioni fra Islam e Occidente. Nella rabbia e l'orgoglio, Oriana riassume i suoi ultimi anni da inviata e il libro diventa anche un'accesa accusa alla società occidentale e al processo di decadenza continuo e inarrestabile di questa società. Ma per capire come è arrivata a queste conclusioni, bisogna ripercorrere la sua storia. Oriana nasce a Firenze il 29 giugno del 29. Nel 1944 vede il padre antifascista sfuggire alla fucilazione. Sulla testa le cadono in sequenza prima le bombe alleate, poi le mine tedesche che sfregiano la città e le lasciano dentro qualcosa di definitivo. Ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi. Coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessato, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. Fin da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio. Alla fine degli anni 50, Oriana realizza negli Stati Uniti per l'Europeo una serie di articoli sul divismo e sul mondo del cinema. Durante questa avventura intervista personaggi come Orson Welles, Paul Newman, Arthur Miller, facendo emergere una realtà umana e esistenziale totalmente diversa dall'immagine pubblica. Nasce il libro I sette peccati di Hollywood, ma il primo successo della Fallaci come scrittrice arriva 5 anni dopo, dopo un lungo viaggio in Oriente. Il sesso inutile è il libro che racconta la condizione femminile in paesi lontani dall'Occidente e dal miracolo economico. Il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso a cui tu appartieni, non sembra affatto inutile. Lo spero. E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi, se vuole essere una autocritica tua, non lo so, spiegacelo. Il sesso inutile è quello delle donne, perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile, cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato. Un libro che fa discutere, come racconta Natalia Aspesi. Questo libro, cominciare dal suo titolo, Sesso inutile, fu molto importante. Non fu politico, non era un libro politico, era un libro di storie di donne. Ma, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato. Arrivavano i grandi libri dall'America, La mistica della femminilità, dall'Inghilterra L'eunuco femmina. A quell'epoca le donne lavoravano nei giornali femminili, ma nei quotidiani non ce n'era neanche una. E nei settimanali di informazione, sì, c'era già una grande star che era Camilla Cederna, e però lei entrò con un altro modo completamente diverso di lavorare, cioè grande scrittura enfatica e soprattutto tutto il mondo aperto per il suo giornalismo. Oriana Fallaci è una donna curiosa e controcorrente. Cerca continuamente nuovi stimoli, vuole essere presente agli avvenimenti, viverli in prima persona. Torna negli Stati Uniti per seguire la corsa alla Luna e raccontare quello straordinario mondo tra scienza e utopia che stava nascendo. Alla NASA incontra un mondo di militari e di ingegneri, di chimica e di fisiologia, di uomini e di macchine, dove sta nascendo l'umanità del futuro. Innanzitutto è gente che studia moltissimo. Studia di giorno, studia di notte, studia a casa, studia in allenamento. Sono tutti ingegneri laureati in ingegneria astronautica. Studiano geologia, chimica, matematica, fisica, biologia. E non soltanto studiano, sono sottoposti ad allenamenti severissimi nel deserto, nella giungla. Hanno un orario d'ufficio da condannati ai lavori forzati. Questa è una domanda che ho rivolto a tutti gli astronauti. Ma tu hai paura? Ma lei ha paura? E tutti mi hanno dato una risposta che è una delle ragioni per cui li stimo molto e gli sono tanto affezionata. Tutti hanno risposto sì. L'eccezione di Shepard, di un altro. Le posso dare la risposta esatta di White. Ecco qua. Lei pensa che avrà paura la prima volta che andrà su? Risposta. Chiunque le dica che non ha paura, mente. Al pubblico questo modo di raccontare piace e i suoi articoli sono un successo che crea invidia, tanta invidia. Ma sono il trampolino di lancio per una nuova avventura, quello che la porta dalla NASA a Saigon nel 68, con il fotografo Gianfranco Moroldo, con il quale nasce un rapporto speciale che produce un grande reportage. Sono Furio Colombo e il direttore di France Press a Saigon, François Pelou, a raccontarlo. La guerra del Vietnam è stata l'ultimo episodio della grande tradizione giornalistica del reporting, dal fronte, diciamo, del giornalismo dal fronte. Il giornalismo dal fronte, nella sua tragedia, nella sua tristezza, nella sua drammaticità, ha avuto delle pagine grandissime in tutto l'ultimo secolo. I nomi vanno da Graham Greene a Ernest Hemingway. Sui rotocalchi italiani ci sono state pagine molto grandi, basti ricordare che uno degli inviati a un certo punto per l'Espresso è stato Goffredo Parise. Una delle sue interviste più riuscite è quella al generale Giap, nordvietnamita, in cui lui si trovò ad ammettere che la famosa offensiva del Tet contro gli americani fu in realtà un insuccesso dei Vietcong, dei comunisti, e che lui, il generale Giap, non aveva alcuna responsabilità. Era stato un errore dei Vietcong infiltrati nel Vietnam del Sud. Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla delle Central Highlands, delle pianure centrali, con una squadra di americani, e il caposquadra ha detto: "Let's hope we shall not find girls." Speriamo di non trovare ragazze. Io ho detto: "Ragazze?" Cioè, sì, le ragazze Vietcong sono le più coraggiose, le più pericolose. They scare me like hell, mi spaventano a morte. Il 68 non è solo l'anno del primo ritorno dal Vietnam, ma è anche quello della morte di due grandi speranze. In tre mesi muoiono Martin Luther King e Robert Kennedy. In autunno poi esplode il Messico. Gli studenti dicono no alle Olimpiadi in un paese tenuto nella miseria. Il 2 ottobre, nella capitale, Città del Messico, almeno 300 manifestanti disarmati vengono uccisi dai militari e dalla polizia. Oriana, sulle tribune con i manifestanti, viene ferita gravemente. Queste le sue parole intervistate in ospedale il 4 ottobre del 68. C'erano nella piazza delle Tre Culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti. Assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam. Negli anni che seguono emerge quello che per alcuni è il principale talento della Fallaci. Sapere intervistare, intervistare come nessun altro. Presente su tutti i fronti di guerra, accolta nelle stanze che quelle guerre decidono o impediscono, Oriana colleziona una sensazionale serie di incontri con i potenti della terra. Dalle copertine dell'Europeo a quella di un nuovo libro, cambia solo il titolo, Intervista con la storia. Ancora l'amica rivale Cristiana Manpur della CNN. Ancora prima di diventare giornalista sapevo chi era Oriana Fallaci. Io sono mezza iraniana, sono cresciuta là e lei aveva fatto un'intervista disdicevole allo Shah di Persia. Quell'articolo diventò la pietra dello scandalo nella cerchia dei miei genitori, dei loro amici e naturalmente a corte. Tutti pensavano che lei si era comportata da insolente, che aveva provocato lo Shah sulla condizione delle donne e lui si era lasciato andare a giudizi non proprio lusinghieri. Aveva ribattuto: conoscete un grande chef che sia una donna o un grande musicista donna? E questo più di 30 anni fa. Così è entrata nel mio inconscio, ben prima che iniziassi a lavorare. Quando più avanti ho comprato Intervista con la storia, ho pensato che fosse la raccolta di incontri più straordinaria che avessi mai letto. I faccia a faccia con i grandi erano elettrizzanti, costruiti lontano dagli scandali e dal sensazionalismo, per arrivare alla persona, alla verità. Sono gli anni della guerra del Kippur in Medio Oriente, della prima visita di un presidente americano in Cina, dello scandalo Watergate, della dittatura di Pinochet in Cile, della fine di quella dei colonnelli in Grecia. Oriana scrive di tutto questo. Dalla Grecia, in cerca di democrazia, arriverà il suo romanzo più celebre, Un uomo, una biografia di Alekos Panagoulis, l'uomo che ha amato e con cui ha diviso gli sforzi per la ricerca della democrazia. Io non riesco a vedere il mio rapporto con Alekos, la mia storia con Alekos, da un punto di vista romantico. Fu anche un incontro politico, un incontro intellettuale. Io amo dire che fu una scelta morale, una scelta politica. Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo, perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente. Il suo eroismo era la conseguenza del suo essere poeta, una coerenza col suo essere poeta. Parlo dell'eroismo soprattutto iniziale, il tentato al tiranno, le torture, l'arresto, le torture, il processo, la condanna a morte. Il tribunale condanna a morte Alekos Panagoulis, ma la protesta del mondo impaurisce i militari che decidono di rinchiuderlo a Boiati. In un cumulo di cemento dove Panagoulis, sempre ammanettato, sopravvive a sevizie e torture per 5 anni. Dopo essere stato graziato, si occupa ancora di politica e cerca i documenti che mostrano la natura corrotta del governo dei colonnelli. Alekos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo, e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento. Avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976. Il 3 maggio era un lunedì. Alekos è stato ucciso la notte del 1 maggio. Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, Un uomo, esce in un paese, Alekos rinasce e torna ad essere vivo. un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città e rintronava incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zii, zii, zii, vive, vive, vive, un ruggito che non aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creatura con due gambe, due braccia e un pensiero proprio. Si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a mezzogiorno è incrostata di pugni chiusi, di bocche distorte, di facce contratte, aveva invaso la piazza della capitale ortodossa, poi allungato i tentacoli nelle strade adiacenti, intasandole, sommergendole con l'implacabilità della lava che nel suo straripare divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zii, zii, zii. A 10 anni dall'intervista allo Scià di Persia, Oriana incontra l'uomo che l'ha costretto alla fuga. Khomeini. Nessun capo di una teocrazia ha il potere, il mistero, il seguito di Khomeini. E la Fallaci mette a segno un'altra intervista per la storia. La Fallaci incontra l'Ayatollah per il Corriere della Sera, lo incalza, lo mette all'angolo e chiude l'intervista liberandosi del chador che le avevano imposto. Nel 1992, 63 anni, Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte. È la prima guerra del Golfo. Fra tutte quelle che ha raccontato, la più insensata. Ne parla così in un'intervista del 91 al TG2. Saddam Hussein non è uno Hitler. Era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare. Probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone. Vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini nel loro sangue. Dal 91 al 2001, 10 anni di silenzio, per poi affrontare le ultime sfide e le ultime polemiche, e soprattutto il cancro, la malattia che la porterà alla morte il 15 settembre del 2006. Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro. Non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa. Guardi, bisogna fare come si fa qui in America. Bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente. Io ho il cancro. Dirlo come si dice o si direbbe: ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta. Io faccio così, e a fare così mi sembra di esorcizzarlo. Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra, è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi, come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo.